Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buonasera e benvenuti, ben ritrovati all'ascolto di Rock Wave Live, Io mi racconto con Gilles Facchinelli. Siamo arrivati all'ottava puntata e questa sera torniamo ad occuparci di libri. Io voglio perdere poco tempo perché merita subito la presentazione e vado a presentare la mia ospite di questa sera. Per noi di Radio Cooperativa è senza dubbio un grandissimo piacere ed onore dare il benvenuto alla giornalista e scrittrice Tamara Ferrari. Grazie, salve a tutti. Buonasera, buonasera dottoressa, posso chiamarla così? Sì. Dottoressa Ferrari. Grazie a nome di tutta Radio Cooperativa per averci dato questa grandissima opportunità. Volevo un attimo presentarla prima di passare al libro di questa sera. Per chi non conosce la nostra ospite, lancio un suo breve curriculum. È giornalista, scrittrice, ha lavorato per il quotidiano Avvenire e per Glamour.com, ha scritto per Vanity Fair per molti anni, sì. Anna L e Oggi 7 News, che è un inserto settimanale del quotidiano italo-newyorkese America Oggi. Ha scritto due libri, il primo nel 2005 Con gli occhi sbarrati, che testimonia il risveglio di Salvatore Crisafulli, ne avrete sicuramente sentito parlare per lungo tempo, è il siciliano che in stato vegetativo permanente sentiva e capiva tutto, però non riusciva a comunicare. Magari una prossima occasione ne riparleremo. Poi nel 2014 ha pubblicato per Spartaco Edizioni il libro Il confine sminato, cronache da Siria, Iraq, Afghanistan, Libia, Sud Sudan, Bosnia ed Erzegovina e Italia. Questa sera noi siamo qui con la dottoressa Ferrari per parlare proprio di questo libro, Il confine sminato. Dottoressa, martedì 11 novembre è stata ospite qui in provincia di Padova a Tre Baseleghe e ha avuto occasione di confrontarsi in pratica con dei ragazzi delle scuole medie. Com'è stato questo incontro? Il loro rapporto con la guerra? Cosa hanno portato a casa questi ragazzi? Intanto grazie per avermi ospitato in questa trasmissione radio. Per me è un onore essere qui. Questa mattina è stata una giornata diciamo abbastanza incredibile. Dico la verità, io ero un po' perplessa quando mi hanno invitato in una scuola media, perché il mio libro è un libro molto crudo che racconta delle storie che secondo me erano troppo forti per dei ragazzini delle scuole medie e quindi mi ero interrogata su come raccontare a dei ragazzi che comunque sono piccoli di età le guerre. In realtà, e questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo, ho trovato dei ragazzi molto interessati. Loro avevano letto anche non tutto il libro, ma molte parti. Molte cose li avevano colpiti, mi hanno fatto tantissime domande. C'era un silenzio in quella sala incredibile. A volte quando smettevo di parlare continuavano a fissarmi e alzavano le mani perché continuavano a farmi domande, volevano sapere anche cose che io non avrei mai immaginato di dovergli raccontare. E tutti poi alla fine mi hanno chiesto, ed è stata la domanda credo più importante, se ci sarà mai fine alle guerre nel mondo. Ovviamente la mia risposta è stata che potrebbe esserci una fine nel momento in cui loro, tra qualche anno, quando saranno adulti, prenderanno nelle mani le redini del mondo e finalmente costruiranno un mondo di pace. Penso sia sempre difficile raccontare di guerra a dei ragazzi, perché quantomeno noi della nostra generazione, bene o male, per fortuna l'abbiamo evitata, però qualcuno ce la raccontava spesso, questi ragazzi invece è un po' più complicato. Sì, però dobbiamo anche dire che questi ragazzi vivono circondati da una violenza che probabilmente noi non abbiamo visto e vissuto. Loro la violenza ce l'hanno nei videogiochi, ce l'hanno quando accendono la televisione, quando sentono i telegiornali, a volte anche senza filtri, quando si collegano a internet con i video che magari guardano. E quindi è importante parlargli delle guerre, dandogli anche uno sguardo, diciamo, un po' più adulto, aiutandoli a filtrare le notizie di cui vengono bombardati quotidianamente e aiutandoli anche a capire quale può essere il loro ruolo nel mondo, in un mondo che va sempre più verso la violenza, purtroppo. E questa è una cosa... Certo. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Allora, dottoressa Ferrari, io direi di parlare anche adesso del libro. E di cosa esattamente parla il suo libro? Ma il mio libro è un insieme di due storie, che poi in queste due storie se ne intersecano tantissime. La prima sono i miei reportage nei vari paesi in guerra in cui sono stata durante gli ultimi 10 anni, e quindi la Siria, l'Iraq, l'Afghanistan, la Libia, il Sud Sudan, e sono dei racconti che puntano l'attenzione su, non sui motivi geopolitici che hanno causato le guerre, di cui sentiamo parlare spessissimo, ma proprio sull'uomo, sull'umanità, su che cosa vivono le persone dei paesi in guerra, che a volte sono uomini, donne, bambini, che neanche capiscono per quale motivo vivono quella situazione, che non capiscono i motivi per cui le guerre sono scoppiate, che sono costretti a scappare e a lasciare le loro case. La seconda storia che si interseca in tutte queste altre è una storia che arriva dall'Italia ed è un'altra guerra, cioè la guerra di un papà per salvare sua figlia. Questo papà è un maresciallo della Brigata Folgore che si chiama Davide Campisi. Di professione fa lo sminatore, quindi lui quotidianamente passa le sue giornate nei campi minati a sminarli, ma questo lavoro lo fa anche in Italia, perché l'Italia è ancora piena di ordigni della Seconda Guerra Mondiale, quindi quando ne viene trovato qualcuno, lui è considerato uno dei più bravi sminatori che abbiamo in Italia e va lì. Perché racconto la storia di Campisi? Perché io l'ho conosciuto durante un corso per giornalisti che vogliono specializzarsi per andare nelle zone di guerra, e lui era la persona che ci spiegava insomma, le differenze tra i vari ordigni e come bisognava muoversi qualora ci fossimo trovati a dover camminare in un campo minato. Ora, lui ci raccontava come lui toglie le mine e disse una frase che mi colpì tantissimo, cioè: io è una vita che ogni volta che tolgo una mina penso di aver salvato un bambino, ma non sono riuscito a salvare mia figlia. E qui è la guerra personale di Davide Campisi, sì. Cioè la battaglia di un padre per salvare la vita alla sua bambina, perché Davide ha avuto due figlie, è sposato, vive a Lucca e ha avuto due figlie. La seconda, la più piccolina, quando non aveva neanche 2 anni si è ammalata per un tumore al cervello, quindi quest'uomo che continuava ad essere inviato nelle varie zone di guerra viveva sempre con quest'ansia di dover salvare la figlia, interventi, chemioterapie e tutto quello che noi conosciamo quando ci sono questi casi. A un certo punto la bambina è stata dichiarata guarita, aveva 16 anni e lì purtroppo il destino a volte è crudele. E un giorno che Davide si trovava in Italia e doveva partire per una nuova missione in Afghanistan, avevano deciso con la famiglia di mangiare tutti quanti insieme una pizza, un po' era come una cena per salutare, insomma, sì, questo padre che doveva partire. Lui è andato a comprare la pizza, sua figlia che aveva un fidanzatino, era andata, che il fidanzatino giocava a basket, quindi lei era andata a vedere la partita del fidanzatino di basket, doveva rientrare a casa appunto per questa pizza. E lui l'ha chiamata, le ha detto: Federica, perché si chiamava Federica sua figlia, vengo a prenderti. No papà, siamo vicini a casa, stiamo arrivando. E Davide è partito con la macchina per ritornare a casa con le pizze, è arrivato proprio nei pressi di casa, si è imbattuto in un incidente, è sceso dalla macchina per dare soccorso e ha visto che c'era una macchina che aveva investito un ragazzo. Ma il ragazzo a terra era il fidanzatino di sua figlia, quindi lui ha capito subito che da quelle parti doveva esserci anche sua figlia. L'ha cercata con gli occhi ma non riusciva a trovarla. Intanto si stavano fermando altre persone, stavano soccorrendo questo ragazzo che era gravissimo e nessuno prestava attenzione a Davide. E lui si è messo a cercare sua figlia forsennatamente e un pochino più in là, oltre il guardrail, l'ha trovata sdraiata perché sua figlia era stata sbalzata dalla macchina, ha cercato di soccorrerla, purtroppo sua figlia è morta, gli è morta quasi tra le braccia e il giorno dopo, cioè 2 giorni dopo, durante i funerali della ragazza, è morto anche il fidanzatino. Da quel momento Davide, che ha perso la guerra per salvare sua figlia, ha cominciato una nuova battaglia, che è quella di aiutare i ragazzi che il fine settimana vanno nelle discoteche. Lui e la moglie hanno comprato un'ambulanza con la quale il sabato notte stanno in giro e prestano soccorso a tutti coloro che hanno bisogno. Sono riusciti a dare purtroppo un senso alla morte di Federica. Sì. Radio Cooperativa. Allora, vorrei iniziare un po', dottoressa, dalla guerra in Siria, visto che ha dedicato anche un ampio spazio alla guerra in Siria. Io proprio ieri, documentandomi un po', ho letto proprio dei dati dedicati alla guerra in Siria. Fino ad oggi la guerra in 7 anni ha fatto 560.000 vittime. 111.330 sono civili, di cui 20.819 minori e 13.084 donne. Sono dei dati, cioè stiamo parlando solo della Siria, senza pensare a quante altre guerre ci sono in corso. Sono dati che ti lasciano di gelo, dottoressa. Sì, sono dati che lasciano di gelo. Ci sono anche oltre 6 milioni di sfollati che vivono nei paesi confinanti con la Siria. Perché è vero che molti siriani, soprattutto nel 2011, quando è scoppiata la guerra, sono scappati verso l'Europa, ma la maggior parte è rimasta nei paesi confinanti, Libano, Giordania, Iraq, vivono nei campi per i rifugiati, in situazioni che noi non riusciamo neanche a immaginare, perché in ciascuno di questi campi sono talmente tante migliaia di persone affollate che non bastano le tende per ospitarle, quindi come succede in tutti i campi per i rifugiati del mondo, ormai questo ho imparato purtroppo, sono costretti a rifugiarsi sotto buste di plastica, cioè si costruiscono le tende, certo, da soli con le buste di plastica. E quindi cosa succede? Io sono stata in Siria quest'anno 2 volte, ad aprile e a fine agosto. Sono entrata tutte e 2 le volte dal Libano. Ad Homs? Quest'anno sono andata sia ad Homs che ad Aleppo. La prima volta ad Homs, la seconda sono riuscita ad arrivare ad Aleppo, perché era un po' complicato, perché comunque in quelle 7 ore di strada in macchina che ci sono tra Damasco e Aleppo, ancora non sono, diciamo, tranquille. Il governo di Assad ha praticamente riconquistato gran parte della Siria, tranne le zone a nord che sono ancora sotto il dominio dell'ISIS, però ci sono ancora, appunto, lungo questa strada delle zone di conflitto, quindi si percorre, c'è una strada che tu percorri a una velocità, a tutta velocità, perché potresti rimanere vittima da una parte o dall'altra. Certo. E la cosa che colpisce è vedere queste intere città distrutte. Damasco è una città che la guerra l'ha vissuta, diciamo, poco. Anche io sono stata nel 2011 e nel 2012, anche quindi nel pieno della guerra, diciamo, nei dintorni di Damasco, il centro della città era tranquillo, i ristoranti erano aperti, la gente continuava a vivere perché comunque la vita continua, a prescindere. Ogni tanto arrivava qualche colpo di mortaio, è arrivato nella grande moschea di Damasco, però comunque si viveva. Quando ti spostavi più verso le periferie già diventava una situazione completamente diversa. Le periferie sono completamente distrutte, le periferie di Damasco. Ma la cosa che colpisce di più è quando da Damasco ci si sposta per andare appunto verso nord. Homs è una città spaccata a metà. C'è un'intera, diciamo, metà città completamente distrutta. Cioè proprio distrutta, macerie, macerie, sì. Macerie. E la cosa che colpisce è che in mezzo a tutte queste macerie c'è ancora la vita, perché la gente sta ritornando a vivere, stanno ricostruendo. E hanno riaperto anche il souk, l'antico souk di Homs. Homs era famosa per il souk, che era, aveva insomma, una storia bellina. Sarebbe il grande mercato nel centro della città. È stato ricostruito e stanno ricominciando ad aprire i negozietti. La gente cerca di ricominciare a vivere. Aleppo è nelle stesse identiche condizioni, metà Aleppo è completamente distrutta. Ora, quando noi diciamo metà Aleppo completamente distrutta, dobbiamo immaginare distese sterminate di palazzi, di palazzoni, quindi palazzi a più piani, completamente distrutti. Immaginiamo tutte le persone che vivevano in questi palazzoni, quelle sono famiglie numerose, ogni famiglia ha 5, 6, 7, 10 figli. E tutte quelle persone o sono morte o sono scappate. E se sono scappate, dove sono? Sono certo. Certo, infatti ho visto anche le immagini di, sì, di Homs, e è come vedere un grandissimo terremoto, sì, solo che al contrario, che il terremoto poi a un certo punto per fortuna si ferma, lì invece non si è fermato, è andato avanti a distruzione su distruzione, sì, vittime su vittime, non... Sì, ma poi quello che colpisce dai racconti della gente è quello che questa gente ha vissuto, perché oltre a stare per anni, perché comunque adesso a marzo saranno 8 anni, oltre a stare per anni sotto bombardamento, hanno vissuto anche il terrore dell'ISIS e comunque di questi gruppi estremistici che hanno conquistato le città. E il meccanismo era sempre lo stesso, cioè tutti raccontano la stessa cosa. Queste, diciamo, orde barbariche che arrivavano su questi gipponi bianchi, appena entrati nella città, uccidevano i primi che gli capitavano, cioè le prime persone che incontravano, le crocifiggevano, mettevano queste croci sulle jeep e facevano il giro dei quartieri per terrorizzare la gente. Lasciavano i corpi per strada. Una guerra psicologica. Era una guerra psicologica, era il terrore, sì, il terrore. Dopo cominciavano a imporre il burka. E cominciavano a depredare le case e imporre la loro legge islamica. Ma la Siria era uno stato democratico, no? Prima del 2011 o già non lo era? O era una democrazia? Era una finta democrazia, perché comunque, diciamo, è una dittatura, c'è cioè la dittatura di Assad, però era, come succede spesso in questi paesi, una dittatura dove c'era una tolleranza religiosa, la tolleranza religiosa era garantita, e questa è una cosa straordinaria, diciamo, per questi paesi, perché è difficile veder vivere insieme i cristiani con i musulmani, è difficile vedere una chiesa accanto a una moschea. A Damasco ancora oggi tu vedi camminare la ragazzina in minigonne accanto a quella con il velo e si rispettano l'una con l'altra, sono amiche e camminano assieme. Allora, questi giovani che nel 2011 sono scesi per strada per chiedere la libertà e la democrazia, perché loro non hanno la democrazia, non hanno proprio l'idea della democrazia, o meglio, cominciavano ad averla e la volevano questa libertà. Quello che dicevano, che raccontavano questi giovani già nel 2012 era che la democrazia, il loro ideale di democrazia gli è stato rubato da questi gruppi islamici che si sono intrufolati nella loro protesta, se ne sono appropriati e ne hanno tratto un'occasione per cercare di instaurare quello che è il loro stato islamico, purtroppo. Certo, Comunque da qui poi in pratica è venuto fuori un tutto contro tutti, è veramente un caos, no? Sì, è venuto fuori un caos, e la cosa che colpisce quando si arriva in Siria è che sembra di essere in una terza guerra mondiale in formato, diciamo, ridotto, perché quello che noi non vediamo nelle immagini dei telegiornali, anche perché è difficile mostrarlo, perché non puoi neanche riprenderli, è che tu vedi passare il carro armato sovietico, il carro armato russo, scusate, insieme a al carro armato americano, piuttosto che vedi i cinesi, vedi gli iraniani, cioè tu vedi tutte le potenze del mondo che si stanno facendo la guerra in Siria con una scusa o con l'altra. Gli americani sono entrati con la scusa di combattere l'ISIS, i russi sono entrati per aiutare Assad, eccetera, e si fanno la guerra in un paese, e quindi è come una piccola guerra mondiale. Rockwave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. La Siria ci stava anche portando sull'orlo di una guerra mondiale. La Siria ci stava portando sull'orlo di una guerra mondiale, ci siamo arrivati vicino anche ad aprile. Io mi trovavo in Siria quando gli Stati Uniti hanno bombardato Damasco. Io sono rimasta bloccata 2 giorni al confine tra il Libano e la Siria, perché si pensava che questo bombardamento sarebbe iniziato, ed era veramente uno scenario da terza guerra mondiale. Beirut, il giorno in cui sono arrivata, intanto io sono partita dall'Italia, che c'era la no-fly zone, avevano già fatto la no-fly zone, era l'ultimo aereo che partiva per arrivare lì, e non sapevamo se saremmo atterrati, perché poteva partire un missile in qualsiasi momento. Siamo atterrati a Beirut e ci siamo trovati, ora io sono passata diverse volte da Beirut ed è una città tranquilla, invece quello che tu vedevi quel giorno e proprio lo respiravi era un'area da guerra. Il centro di Beirut era attraversato da carri armati su carri armati, tutti questi armati che si dirigevano verso il confine con Israele, perché se gli americani avessero bombardato la Siria, il Libano era pronto ad attaccare Israele. Noi siamo riusciti ad arrivare al confine, siamo rimasti bloccati 24 ore, siamo entrati in Damasco proprio la notte che sono iniziati i bombardamenti, e sembrava veramente che la guerra stesse scoppiando, ma vista da lì eravamo in mezzo alla terza guerra mondiale. Certo. Poi abbiamo capito che non sarebbe successo nulla, perché quando abbiamo visto che è vero che stavano cadendo i missili su Damasco, ma i missili erano diretti verso obiettivi specifici e quindi non stavano colpendo i civili, la città fatta dagli uomini e donne, sì, civili, ma stavano colpendo degli obiettivi, e quindi lì abbiamo capito che non ci sarebbero state ritorsioni da parte degli altri paesi. E ascoltandola adesso, dottoressa Ferrari, mi viene da chiederle, ma cioè, sapendo appunto di tutti i rischi che comporta l'essere lì, il viaggiare verso questi territori, cosa nonostante tutto la spinge ad essere lì? La ricerca forse della verità, perché soprattutto in questo periodo in cui siamo bombardati da fake news, credo che sia importante che i giornalisti continuino ad andare lì. Io ricordo quando sono andata nel 2011 e nel 2012 in Siria, che continuavamo a ricevere video e immagini che alla fine poi si sono rivelate dei falsi, ed è difficile da qui distinguere. C'è bisogno, è vero, ci sono anche tanti giornalisti in quei luoghi, ma a volte le notizie che passano sono notizie filtrate, non è facile, e quindi c'è bisogno di giornalisti occidentali, o comunque insomma di una voce, diciamo, estranea a quella situazione lì, cioè di un occhio indipendente, che appunto che vada lì e che ci racconti quello che sta in realtà succedendo. Comunque, da quello che vedo e sento, non sempre, o da una parte o dall'altra, non sempre siete graditi. No, purtroppo non sempre siamo graditi, purtroppo a partire dalla guerra in Iraq degli anni del 91 è nata questa tendenza ad attaccare i giornalisti che si recano nelle zone di guerra. Prima il giornalista era in un certo senso protetto, perché si considerava che il giornalista non è armato. Pensiamo a Hemingway, no? Tutti i reportage che fece dalla guerra erano protetti, andavano lì e nessuno li toccava, potevano muoversi. poteva capitarti l'incidente, quello può capitarti sempre. Adesso non solo metti in conto l'incidente, ma quando parti metti in conto anche il rischio di essere sequestrato, che è diventato, diciamo, lo sport, diciamo, sì. Sequestrare i giornalisti prima, e con l'ISIS la nuova tendenza, uccidere i giornalisti in diretta, perché così sconvolgi l'opinione pubblica del loro paese. Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Siamo con la dottoressa Tamara Ferrari e stiamo presentando il suo ultimo libro, Il confine sminato. Parliamo di guerra. Non è che raccontiamo le ragioni politiche della guerra con la dottoressa Ferrari, ma parliamo un po' anche di tutti i risvolti umani. Una delle cose, ad esempio, che mi ha fatto riflettere è quando si parla di tutti questi, di tutta questa immigrazione, no? Io non sono qui a giustificare, accogliamoli, non è questa la questione. Sto pensando a tutte queste persone che fuggono, e sono tante. Veramente mi rendo conto che sono tante, ed è uno dei motivi per cui ho avuto piacere di leggere questo libro e poter parlare con lei di questi argomenti. Qua non è la questione chi li accoglie, accogliti in casa tua, no, non è questa la questione, è che mi rendo conto veramente che per queste persone alla fin fine devono fuggire, devono scappare via, perché è una scelta: o morire o decidere e vivere da un'altra parte. Ecco, allora io vorrei cominciare anche a parlare un po' dei vari episodi, poi entreremo sempre un po' su delle realtà abbastanza pesanti. Io volevo parlare un attimo di Mohammed. Sì. Ecco, chi era Mohammed? Mohammed è un soldato, sì? Siriano, sì? Di cui parlo all'inizio del libro, ed è una storia che mi ha colpito tantissimo. Io l'ho conosciuto nel 2011, la prima volta che sono entrata in Siria, e sono andata nell'ospedale dei militari feriti in guerra. Girando tra i reparti avevo visto questo ragazzo, era un ragazzo molto giovane, Mohammed, che indossava una maglietta azzurra con scritto Italia. Ovviamente sono italiana, mi sono fermata. E abbiamo cominciato a fargli un po' di domande, a chiedergli che cosa gli era successo. Teniamo conto che eravamo in un periodo in cui ancora noi non sentivamo parlare, l'ISIS non sapevamo che cosa fosse. Cominciavamo a sentir parlare di Jabhat al-Nusra, che è praticamente l'Al-Qaeda siriana, cioè sono i gruppi di Al-Qaeda che noi conoscevamo, no? Bin Laden, che erano entrati in Siria. E questo ragazzo mi sconvolse, perché lui era traumatizzato, era un giovane traumatizzato. E quello che mi ha raccontato mi ha lasciato senza parole, perché lui era convinto, lui era rimasto ferito per lo scoppio probabilmente di una mina. Era uscito con il suo reparto per andare a salvare una famiglia che era stata sequestrata dai terroristi, erano riusciti a salvarli, quindi la missione era stata compiuta, avevano addirittura mangiato qualcosa insieme a questa famiglia, stavano rientrando, e mentre rientravano c'era stata questa esplosione. Lui si era ritrovato in una fossa con accanto uno dei suoi commilitoni morto. Lui però non poteva muoversi perché era ferito, aveva cercato di arrampicarsi per arrivare alla cima di questa fossa per chiedere aiuto, ma era scivolato ed era caduto giù. Appena caduto giù si è sentito afferrare dalle spalle, da quello che lui mi diceva che non era un essere umano, era un demone. E la cosa mi aveva colpito, perché adesso noi siamo abituati alle immagini che poi abbiamo visto tutti, no? Proprio le immagini dell'orrore, ma all'epoca non c'era. Era una specie di soldato, indossava una casacca da militare, una fascia nera, quindi era sicuramente qualcuno di questi gruppi terroristici. che lo aveva afferrato, lo aveva chiamato brutto figlio di un cane di Assad, perché appunto era un militare governativo, e aveva minacciato di ucciderlo, dopodiché aveva rivolto la sua violenza contro il commilitone morto, e gli aveva aperto il petto, gli aveva strappato il cuore e aveva cominciato a mangiare il cuore di questo soldato, un'immagine, diciamo, traumatica. Certo. Ma il pensiero di Mohammed mentre viveva questo orrore, andava a sua figlia, perché lui aveva una bambina che non aveva mai visto nascere, perché era stato inviato in guerra, e lui pensava: ma se adesso mi uccidono, e se questo qua mi uccide e mi mangia il cuore, che cosa racconteranno a mia figlia? Come potrà mia figlia vivere pensando a un'immagine di suo padre così, così atroce? Per fortuna lui si è salvato e una volta portato a Damasco ha potuto riabbracciare sua moglie e vedere per la prima volta sua figlia. Ecco, questo è uno dei racconti contenuti appunto in questi quattro, sì, possiamo chiamarli capitoli. Sì. Ecco. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24 con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa con Gilles Facchinelli in regia, al microfono, con la dottoressa Tamara Ferrari, che ci presenta il suo ultimo libro, Il confine sminato. Però volevo adesso parlare di Campisi, l'altra parte di Campisi, in cui lei ha dedicato parecchio spazio al racconto di questo militare. Allora, Campisi era della Folgore di Livorno. Sì, la Brigata, cioè, Folgore. È ancora. Sì. E il suo compito appunto era quello di sminare territori riservati ai passaggi militari, sì, purtroppo non quelli dei civili. E appunto lui raccontava nel libro che addirittura che nel mondo ogni 20 minuti un uomo, una donna, un bambino saltano su una mina. Sì. Anche questo è un dato abbastanza, se pensiamo qui da quanto tempo siamo noi, di quante persone già possono essere saltate in una mina, perché poi non è solo il momento della guerra. Come diceva lei prima, stiamo ancora bonificando qui da noi la seconda guerra mondiale. Ecco, nel 1997 dice 138 paesi, tra cui l'Italia, che fino al 94 era uno dei maggiori produttori al mondo, hanno firmato il Trattato di Ottawa, sì, che ne vieta appunto la produzione e la vendita, ma Cina, Stati Uniti, Russia, Cuba, Israele non hanno firmato il trattato. Allora, dottoressa, le chiedo due cose. Una, se corrisponde al vero che l'Italia non produce più mine antiuomo. Due, perché non tutti i paesi hanno firmato il trattato? Ne ho discusso molto con Campisi. Diciamo che ogni volta che presentiamo il libro insieme c'è sempre qualcuno che fa questa domanda. È vero che l'Italia non produce più le mine? Perché siamo tutti convinti che l'Italia sia ancora uno dei massimi produttori di mine. Ufficialmente no. Teniamo conto però che dalla vendita di armi l'Italia solo nel 2017 ha guadagnato oltre 5 miliardi di euro. Quindi comunque la vendita di armi è una delle... cioè, dai. Perdo da una parte. Di che cosa stiamo parlando? E guadagno dall'altro. Ecco, quindi... Infatti. Perché non hanno firmato il Trattato di Ottawa? Ma perché comunque ci guadagnano. E perché comunque le mine sono un'arma alla quale evidentemente questi paesi non vogliono rinunciare. È il modo per proteggere i confini dei paesi, ma è anche un modo per, diciamo, distruggere un paese, perché si è calcolato che nei paesi in guerra devono passare oltre 60 anni prima di poter eliminare, prima di poter bonificare i territori, e che la maggior parte delle vittime, come appunto dicevamo, sono i bambini. Io mi trovavo in un ospedale di Kabul, nell'ospedale di emergency di Kabul, dove c'è un intero capannone, diciamo è un reparto, ma è un capannone, dove dedicato ai bambini vittime delle mine. E in Afghanistan si è sperimentato un tipo di mina che è stato costruito appositamente per colpire i bambini, che sono appunto le famose mine farfalla. Sono quasi dei giocattolini a forma di farfalla con le alette che si muovono, chiamati anche pappagalli verdi. Sono coloratissimi, vengono lanciati dall'alto ovviamente. E perché sono colorati? Sono colorati per attirare proprio i bambini. Quindi i bambini le prendono, oltretutto sono, diciamo, un bambino la prende, comincia a giocarci, non scoppiano subito questi ordigni, ma il bambino la tiene in mano, ci gioca, la fa vedere agli amichetti, e quando probabilmente è arrivato il momento giusto, quindi in quanto sono tanti bambini insieme che ci stanno giocando, la maggior parte delle volte succede così, questi ordigni scoppiano e fanno una strage. Non solo li uccidono, ma chi rimane senza occhi, chi rimane senza braccia, chi rimane senza gambe, eccetera, eccetera. Mi sono capitati 5 bambini, che erano 5 fratellini, rimasti chi senza una gamba, chi senza braccia e così via. Allora io lì ho chiesto ai responsabili dell'ospedale di emergency a Kabul: ma perché prendersela con i bambini? Ok, vuoi proteggere il confine del tuo stato? Metti una mina normale, perché lanciare delle mine a forma di giocattolo? La risposta è che colpire un bambino significa colpire una famiglia, e spesso sono famiglie povere che quindi non possono poi curare questo bambino, non possono tenerlo, sono costrette a lasciarlo in un orfanotrofio. Colpire tante famiglie significa colpire un villaggio, colpire tanti villaggi significa colpire un intero paese. E purtroppo è anche vero che quando finisce una guerra quello che rimane è uno strascico di persone mutilate. Certo. Ed è una cosa terribile, perché certo, quelle continueranno, cioè certo, sono bambini che diventano adulti e che, a cui lo Stato deve in qualche modo provvedere. Quindi tu comunque uno Stato lo hai messo in ginocchio. Radio Cooperativa. Purtroppo mi rendo conto, leggendo la crudeltà veramente della guerra, che non ha proprio, mi rendo conto che non ha un confine, perché ogni guerra ha le sue crudeltà che va oltre. Ad esempio leggevo di Campisi, no? Quando era, perché lui è stato in Bosnia, giusto? Sì. L'episodio della bambina di, sì, Sarajevo, la collinetta di Sarajevo, sì, che ha tentato di salvare questa bambina. E al di là del fatto di cosa è successo, di come è successo, volevo leggere un attimo quello che lui ha detto di queste di un professore, mi è rimasto impresso. Lui dice: quando ero in missione a Sarajevo ho conosciuto un professore che insegnava alle scuole elementari. Dopo che era scoppiata la guerra, aveva cominciato a piazzare mine in giro per il suo quartiere, quelli che un tempo sarebbero stati i suoi alunni. Sì. Si perde l'umanità. Come? Si perde come? Completamente l'umanità. E come? Sei circondato dalla violenza, ti scatta qualcosa e perdi completamente l'umanità. Non vedi più il bambino, ma vedi il nemico. Cioè, sì. Consideriamo che qui, quando c'è una guerra civile, stiamo parlando di vicini di casa che si ammazzano, che fino al giorno prima erano amici, cenavano insieme, e il giorno dopo si ammazzano l'uno con l'altro. Certo. È proprio un perdere l'umanità, una perdita di umanità. Certo. La follia pure. Una follia. Vediamo la follia. Sì. Purtroppo sono brutte storie. Sono brutte storie, però, come diceva lei, vanno raccontate. Vanno raccontate perché io ne sono un esempio. Leggendo questo libro mi rendo conto veramente di com'è la guerra. Ho letto dei libri, sì, riguardo quello che è stata la nostra guerra, però questa la vediamo sempre come una cosa un po' lontana, che forse non ci riguarda. Invece, come abbiamo detto prima, abbiamo fatto l'esempio della Siria. Possiamo venire coinvolti in pieno, non solo con mezzi militari lì sul posto, ma veramente a una guerra estesa. Quindi non c'è un limite a questo orrore. Non c'è un limite, purtroppo più andiamo avanti e più assistiamo a delle cose, cioè una cosa peggio dell'altra. Io credo che quello che abbiamo visto con lo Stato Islamico, con i terroristi dell'ISIS, sia qualcosa che non era mai stato prima visto nella storia dell'umanità. Ma soprattutto il motivo per cui secondo me è importante raccontare queste storie è che noi siamo abituati a sentir parlare di numeri, però non diamo mai un volto a questi numeri. Una cosa a dire è esplosa una bomba a Damasco, sono morte 40 persone. Un'altra cosa è dire è andare lì sul posto, parlare con i familiari di queste persone che sono morte, è quasi un riscoprire chi c'è dietro quei numeri, cosa alla quale noi non pensiamo mai, anzi siamo talmente abituati a suoi fatti che ormai non ci stupiscono più certe cose. Poi magari, che ne so, ti capita di andare a Karakosh in Iraq, che è un villaggio cristiano, tra l'altro insomma è rimasto un villaggio che è stato svuotato dopo l'arrivo dell'ISIS, io sono andata prima, e incontrare i genitori di una ragazza che semplicemente era partita da casa quella mattina, era salita su un pullman per andare a scuola, e a un checkpoint questo pullman è saltato in aria per un attentato terroristico e questa ragazza è morta. E poi sentire questi genitori che ti dicono: questa mia figlia era una ragazza che aveva una voce bellissima. Ridare una dimensione umana a questi numeri, cioè capire che ogni volta che ci viene detto esploso un ordigno lì, c'è stato un attacco da quest'altra parte, sono morte 100 persone, ognuna di quelle 100 persone aveva una storia personale, una famiglia, ognuna di quelle persone lascia un dolore incredibile alle sue spalle. Come tutti i morti nel Mediterraneo, ne approfitto, ma nel 2011, quando c'è stata la primavera araba e sono scappati tutti i ragazzi dalla Tunisia, dal Marocco, e molti sono morti nel Mediterraneo, non se ne parla molto. Cioè, di solito ci dicono: ah, sono morte 360 persone nel Mediterraneo, ma noi non ci chiediamo chi sono queste persone. Ci sono state delle mamme tunisine che hanno fatto delle collette per poter venire in Italia. All'epoca c'era Napolitano, Presidente della Repubblica, per venire a parlare con Napolitano perché volevano sapere che fine avevano fatto i loro figli, perché loro sapevano soltanto che questi figli erano partiti e poi non avevano più avuto notizie. E quello è un ridare un'umanità a quei numeri, capire che dietro ciascuno di quei ragazzi morti nel Mediterraneo, poi lasciamo stare i motivi per i quali scappano, chi deve ospitarli, cioè, però dietro ognuno di loro c'è una famiglia e c'è una storia personale che l'ha portato a salire su quella barca. Rockwave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vorrei dedicare uno spazio anche al Sud Sudan. Lei è stata lì nel 2014 e su questo paese, dove in pochi giorni 1 milione di persone, così ho letto, abbandonarono i villaggi per cercare rifugio in Uganda, Kenya e Etiopia. In pochi giorni 1 milione di persone. E intanto, quando io sono arrivata lì, Yusuf e Batil si chiamava questo villaggio dove sono arrivata io, non c'erano mezzi per arrivare. L'unica organizzazione umanitaria che era arrivata sul posto era Medici Senza Frontiere, che ci ha dato una mano, ma Medici Senza Frontiere era arrivata in questi luoghi risalendo il Nilo Azzurro, solo che poi era iniziata la stagione delle piogge, era agosto è stagione delle piogge, e quindi non si poteva più risalire il Nilo, e l'unico modo per arrivare era o in elicottero oppure con dei piccoli aerei che però atterravano praticamente nella boscaglia, per cui già l'arrivo è stato traumatico perché non sapevamo se saremmo atterrati oppure no. Tra l'altro siamo atterrati in mezzo a un fiume di fango. E la cosa che mi aveva colpito è che in mezzo alla vegetazione e in mezzo a quest'acqua c'erano un sacco di bambini e donne soprattutto che ci guardavano con il naso all'insù, erano con le gambe praticamente immerse nell'acqua e nel fango, e aspettavano perché sapevano che sarebbero arrivati farmaci e cibo, perché lì purtroppo era difficile far arrivare tutto, quindi non c'era nulla da mangiare, non c'era acqua, bevevano l'acqua delle pozzanghere, ed erano centinaia di migliaia di persone fuggite dalle loro case senza niente addosso, perché erano iniziati i bombardamenti, quindi erano scappati solo con quello che avevano, cioè molti scalzi. Avevano camminato per giorni senza avere nulla da mangiare, molti erano morti durante il percorso, molti, poi raccontavano tutti la stessa storia. Non avevano niente da mangiare e quindi guardavano, o quando vedevano da lontano un albero di baobab, guardavano se c'erano le foglie, perché mangiavano le foglie e le radici per poter sopravvivere. Una volta arrivati nel campo, quello che loro pensavano che sarebbe stato il loro punto di rifugio, il loro punto di salvezza, non era finita, perché appunto c'era la stagione delle piogge, non c'era nulla da mangiare anche nel campo, vivevano praticamente, dormivano sdraiati nell'acqua, quindi bronchiti, polmoniti, malnutrizione, c'era soprattutto una mortalità infantile incredibile, moriva una media di 5 bambini al giorno. Ora consideriamo che nei paesi a più alto tasso di malnutrizione di solito la media è di 2 bambini al giorno, quindi significa che noi appena siamo arrivati, abbiamo poggiato gli zaini, siamo entrati nell'ospedale di Medici Senza Frontiere e non abbiamo fatto in tempo a entrare che c'è morta davanti una bambina. Pochi minuti dopo ne abbiamo visto morire un'altra. Siamo usciti da... L'ospedale non era un ospedale, erano 4 assi di legno con sopra delle buste di plastica e dei materassi poggiati sul fango. Quindi insomma, era veramente una situazione di fortuna. I 13 medici di Medici Senza Frontiere avevano tutti la malaria, perché era con tutto questo fango e con tutta quest'acqua, quando arrivava il tramonto si alzavano queste proprio nuvole di zanzare malariche. Noi abbiamo bevuto quell'acqua lì, avevano cercato in qualche modo di filtrarla, ma tu non sapevi quello che stavi bevendo. E ricordo questa scena che non dimenticherò mai: io avevo riempito una bottiglietta di acqua filtrata, l'avevo bevuta quasi tutta, me ne era rimasta veramente pochissima, e la tenevo nello zainetto, e stavamo attraversando una pozzanghera insieme, c'era una signora anziana di... diciamo, li chiamiamo villaggi, ma in realtà era un campo per rifugiati, che mi stava dando una mano per non scivolare, e a un certo punto mi sono ritrovata davanti un 10-12 bambini, perché si era un po' aperto il mio zainetto e spuntava fuori questa bottiglietta, e loro avevano capito che lì dentro c'era acqua e fissavano la mia bottiglietta, e io l'ho presa e c'era praticamente un sorso d'acqua, e li guardavo e non sapevo cosa fare, perché la fissavano proprio con... vedevi la sete negli occhi di questi bambini. Poi ho visto dietro di loro un vecchietto che era chino a terra e stava bevendo l'acqua, il fango della pozzanghera, e l'ho data a lui, e la dottoressa che, insomma, che si trovava con me mi ha detto: guarda, tanto comunque queste persone muoiono tutte quante di diarrea qui, perché bevono quest'acqua, e quindi noi non possiamo fare nulla, muoiono per la diarrea. Quindi un'altra conseguenza appunto della sì, guerra, non si limita alle bombe. Non si limita alle bombe, alle mine, poi soprattutto quando pensiamo ai bambini, ma anche queste persone che erano lì, alle quali io chiedevo: ma voi sapete perché c'è la guerra nel vostro paese? Perché c'è la guerra lì tra Sudan e Sud Sudan? Loro non lo sapevano, erano persone che vivevano nei loro villaggi tranquille, che non avevano una TV, una televisione per ascoltare le notizie, non certo. Sapevano nulla. Questi gli erano arrivati gli aerei, avevano cominciato a bombardare ed erano scappati così, traumatizzati. Certo, erano nel loro posto, ma nel posto sbagliato. Sì. Vi ricordo che siete all'ascolto dell'ottava puntata di Rock Wave Live, Io mi racconto, con Gilles Facchinelli e Radio Cooperativa. Con noi ospite questa sera la dottoressa Tamara Ferrari, che ci presenta il suo libro Il confine sminato. Io volevo leggere, se mi permette dottoressa, quello che ha scritto riguardo all'esodo di queste persone verso i campi, verso il confine, appunto in cerca della salvezza. Allora scrive: con le scarpe consumate e rotte, proseguivano lasciandosi alle spalle decine di morti, soprattutto anziani e bambini, stremati dalla fatica, dalla fame e dalla sete. Quando giungevano in prossimità della frontiera, erano così debilitati che alcuni si accasciavano sulle recinzioni di filo spinato e lì smettevano di respirare. Sì. Mi sembra di vedere un po' le vecchie nostre immagini, un po' di quasi Auschwitz. Dimenticate, sì, di Auschwitz, ma ha dato proprio questa l'immagine che io ho avuto. La prima volta che ho pensato ad Auschwitz è stato purtroppo in Siria, a Yarmouk, che era alla periferia di Damasco. Era un ex campo di rifugiati palestinesi arrivati lì nel 57-60. Sono stati al centro dei due fuochi. Da una parte c'era l'esercito di Assad, dall'altra parte c'erano i terroristi dell'ISIS. Sono rimasti in questa situazione per 3 anni, mi sembra, 3 o 4 anni. Quando noi siamo arrivati lì, avevano da poco liberato Yarmouk e la gente era proprio come nelle immagini che noi abbiamo visto. Cioè, questi erano talmente malnutriti che erano degli scheletri che camminavano, ed è una cosa che ti sconvolge. Anche in Africa le vedi queste situazioni, ma in Africa forse si è più abituato, siamo più bombardati da queste immagini. Pensarle in un paese un po' più sviluppato come era la Siria ti lascia veramente senza parole. E volevo chiedere una piccola parentesi, poi ritorniamo. Adesso è qui in Italia. Ci sarà un ritorno in questi posti o no? A gennaio vado in Libano, non so se riesco a rientrare in Siria, e poi a febbraio andrò per la prima volta in Mali, che finora non sono riuscita ad andare. Il Mali, come sappiamo, è un altro dei paesi africani, un'altra delle nostre guerre dimenticate, e anche lì il motivo della guerra è che ci sono anche lì jihadisti. Certo. Quindi più avanti potremo fare un aggiornamento sulla situazione, speriamo magari di parlare di cose più sì, di speranza, perché prima sì. Mi diceva appunto che bene o male a Damasco o Homs, nonostante tutto, c'è la voglia di ritornare alla normalità. Ma, loro ci sperano tantissimo. Guardi, questa voglia di tornare alla normalità c'è dappertutto. C'è una cosa che non raccontiamo mai, e cioè che tutte queste persone che scappano dalla guerra, diciamo la maggior parte di queste persone che scappano dalla guerra non si allontanano più di tanto da quello che è il loro paese, ma vanno a rifugiarsi ai confini. Poi molti, quando vedono, cioè, perché purtroppo nei campi per i rifugiati si vive in quel modo, poi molti da lì si spostano e vengono verso l'Europa, ma la maggior parte rimane lì. Perché? Perché hanno sempre la speranza di poter rientrare nelle loro case. È quello che sta succedendo in Siria, ma è quello che succede, diciamo, in tutti i paesi. E anche nei villaggi, quando tu li vedi appunto a morire di fame, loro ti dicono: sì, è vero, qui non c'è niente da mangiare, però non ci sono i bombardamenti. E appena finisce, io ritorno a casa e ricostruisco tutto. La speranza non la perdono mai. Ed è quella che li porta, certo, ad andare avanti. Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Volevo raccontare anche un altro episodio per capire sempre da quanto le persone possono essere terrorizzate da ogni cosa. Voi arrivate in questo villaggio, dopo il vostro volo, arrivate con una jeep dove ci sono dei simboli, appunto, che dice no armi, quindi è un mezzo dove non ci sono armi. Però, nonostante tutto, venite, perché lei arriva con il fotografo, sì, Giuseppe Carotenuto. Però venite invitati a non usare la macchina fotografica. Sì, perché sono talmente traumatizzati che scambiano gli obiettivi per delle armi, e quindi è meglio non utilizzarla. Potrebbero prendere dei sassi e lanciarteli contro, potrebbero spaventarsi. Lei a un certo punto, ascoltando il disperato racconto del figlio di una di queste persone, alla sua richiesta di pubblicare il tutto, il suo racconto, la sua disperazione, il suo richiamo d'aiuto, possiamo sì, definirlo così. Lei scrive: non riuscivo a guardarlo negli occhi per il senso di colpa. ce l'avrei messa tutta finché la storia fosse pubblicata. Ma poi che cosa sarebbe successo? Sarebbe servito davvero a qualcosa raccontare del suo bambino malato, dei rifugiati che a Domitz morivano di fame e dei piccoli che al confine saltavano sulle bombe? Ecco, allora volevo chiedere se le è rimasto ancora, a distanza di tempo, questo senso di colpa e se è servito alla fin fine raccontare allora, di questo. Questa immagine di cui sta parlando è poi l'immagine che mi ha convinto a scrivere questo libro. Perché cosa succede? Che alle volte il tuo giornale ti invia in un paese, in quel caso era l'Iraq, per fare un reportage. Io ero lì per fare un reportage sulla situazione dei cristiani in Iraq. Mentre andavamo in questi villaggi, Karakoç, quello di cui vi parlavo prima, mentre andavamo a Karakoç abbiamo visto in lontananza questa distesa sterminata di tende. Abbiamo deciso di andare a vedere perché siamo giornalisti, perché siamo curiosi, e ci siamo trovati in questa situazione incredibile dove c'erano migliaia di persone fuggite dalla Siria e rifugiate. Pensate, erano scappati dalla Siria per rifugiarsi in Iraq, quindi cioè, da un inferno all'altro. Le Nazioni Unite avevano immaginato che queste persone potessero scappare verso l'Iraq e avevano immaginato una situazione di 30.000 rifugiati. Lì ce n'erano veramente oltre 100.000. Non c'erano tende, come al solito, non c'era una sistemazione per tutte queste persone. Quando hanno visto dei giornalisti, il loro primo pensiero è stato: questi sono giornalisti, questi racconteranno la mia storia e quindi qualcuno verrà ad aiutarmi. E io mi sono ritrovata ad essere praticamente strattonata da una parte all'altra, cioè venivano a prendermi, mi trascinavano nella loro tenda quasi di forza, non riuscivi neanche a resistere. E ciascuno voleva farmi vedere la situazione in cui viveva e raccontarmi la sua situazione. Per esempio, io ricordo un signore siriano che era in aveva un completo grigio di seta, era elegantissimo, era un medico, era scappato da questo villaggio della Siria e mi ha portato nella sua tenda dove sua moglie mi ha offerto il tè nei bicchierini di cristallo. Eravamo in mezzo al nulla, perché lei quando era scappata da casa aveva pensato di portarsi i bicchieri di cristallo, perché come fai poi quando ti viene qualcuno, ovunque tu sia, a non offrirgli il tè in un bicchiere decente, comunque mantenere la dignità. E tutti ci tenevano che io raccontassi le loro condizioni di vita, però io non ero lì per raccontare quella storia, quindi il mio senso di colpa nasceva dal fatto, io mi sono fermata qui per una curiosità, perché volevo capire quello che stava succedendo, ma io questa sera quando chiamo il mio giornale me la fanno pubblicare questa storia, io raccolgo tutte queste storie e poi se me le fanno pubblicare queste persone comunque hanno fiducia nel mio lavoro, e io che cosa do a queste persone? E poi io torno in Italia e pubblico questa storia. Io lavoravo per Vanity Fair, pubblico questa storia su un settimanale. Questo significa che il giornale esce il mercoledì, da un mercoledì all'altro, quindi per una settimana il giornale sta in edicola, è molto letto, molta gente la leggerà, qualcuno probabilmente deciderà di far qualcosa, ma dopo una settimana il giornale in edicola non c'è più, il giornale non è più in giro. Queste persone però sono ancora qui che hanno bisogno, quindi il mio lavoro a che cosa serve? Ti senti quasi come un ladro di storie. E allora ho pensato, ok, raccolgo queste storie in un libro, perché un libro rimane comunque nelle librerie, un libro ti permette di andare in giro alle presentazioni, un libro ti permette di incontrare le persone e di raccontare queste storie. Ed è il motivo per cui ho scritto il libro. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24, con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Siamo verso i minuti finali, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa con Gilles Facchinelli ai microfoni e con Rock Wave Live Io Mi Racconto. Ospite della serata la dottoressa Tamara Ferrari, che è qui per parlarci e presentarci il suo libro Il confine sminato. Io volevo terminare con le parole di Ahmet. Ahmet ha avuto una brutta disavventura in questa guerra. E io leggo le parole, poi magari lei dirà appunto chi è Ahmet. scrive, anzi, lui dice, amica mia, in occasione di un incontro che siete trovati qui in Italia, poi, sì, fatalità, amica mia, non mi chiami più Ahmet. Ahmet che conoscevi non esiste più, è morto, assieme ai suoi figli. È morto perché non poteva vivere sapendo che li aveva persi tutti e cinque. Questo è l'unico modo che ho trovato per sopravvivere. Cancellare me stesso e ricominciare tutto da capo. Ho la pelle d'oca. Anche io, perché comunque Ahmet è una persona a cui voglio tantissimo bene. Mi ha scritto questa mattina, ha provato a telefonarmi questa mattina, ancora ci sentiamo. Ahmet l'ho conosciuto nel 2011 durante un viaggio in Libia, proprio esattamente un mese prima che scoppiasse la guerra e che Gheddafi venisse destituito. Ahmet era un ex generale di Gheddafi in pensione, aveva 11 figli di cui 5 maschi. Siccome era in pensione e siccome parlava l'italiano, si era messo a fare un po' la guida per i giornalisti italiani che andavano in Libia. Io dovevo fare con lui, gli avevo chiesto se mi accompagnava a fare un giro nel deserto dell'Akakus, che si trova al confine con l'Algeria ed è un territorio sterminato di paesaggi marziani con delle grotte dove ci sono ancora i resti del paleolitico, quindi insomma gli antichi dipinti fatti dai primi uomini, eccetera. E per 11 giorni abbiamo camminato in questo deserto. Lui cercava di insegnarmi a parlare un po' l'arabo ed era un uomo fiero della sua famiglia, la cosa che mi aveva colpito, perché poi vabbè, 11 giorni spalla a spalla alla fine si diventa, certo, per forza amici. E lui non faceva altro che raccontarmi delle sue figlie, soprattutto dei suoi figli di cui era orgogliosissimo. In quel momento lì non c'era nessuna percezione di quello che sarebbe successo soltanto dopo un mese. Quando un mese dopo è scoppiata la guerra, io ho provato a chiamarlo per capire come stava, perché ero molto preoccupata. All'inizio non riuscivo a parlarci, poi è stato lui a chiamarmi, mi ha chiamato dall'Egitto, perché lui quando è scoppiata la guerra è scappato con la famiglia in Egitto, ma è scappato solo con la moglie e con le figlie, perché i suoi 5 figli sono andati in guerra. Alcuni sono andati a combattere con le forze di Gheddafi e altri invece sono andati a combattere con i ribelli. Quindi c'è stata anche una spaccatura in famiglia, fratello contro fratello praticamente. Lui è scappato in Egitto dove continuava a ricevere notizie di un figlio che era morto da una parte e un figlio che era morto dall'altra. Era devastato e soprattutto era pronto a imbarcarsi per arrivare in Italia. Lui quando mi chiama lo riconosco subito, perché la prima cosa che mi fa: Tamara, sempre bello parlare con te, è la prima cosa che mi dice senza neanche iniziare a parlare. Mi chiamò e mi disse: Tamara, sempre bello parlare con te, mi trovo in Egitto e sto per andare in Libia, voglio imbarcarmi, cioè per andare, tornare in Libia perché voglio imbarcarmi per arrivare in Italia. Io mi sono messa a urlare perché era il periodo in cui molti barconi stavano naufragando nel Mediterraneo, gli ho chiesto di non partire, di farsi aiutare in Egitto. Lui però non mi ha raccontato dei figli che stavano morendo, non mi ha raccontato nulla. Mi diceva soltanto che la sua situazione non era bella. Io immaginavo, certo, è dovuto scappare da casa con tutta la sua famiglia, non potevo immaginare che i figli fossero andati a combattere. Non l'ho più sentito fino alla fine della guerra, ero molto preoccupata. Quando ormai la guerra, diciamo, era finita, diciamo che non è mai finita la guerra in Libia, però quando la situazione un po' si era assestata, lui mi ha chiamato e non era più il solito Ahmet, aveva una voce strana. E tutte le telefonate che ci siamo fatti in seguito, io continuavo a chiedergli che cosa era successo, perché capivo che c'era qualcosa che lo angosciava, però lui mi diceva: no, te lo racconterò quando ci vedremo di persona. Il problema è che quando tu vai in questi paesi e conosci queste persone, pensi che poi sì, forse un giorno se io torno lì le rincontro, ma è difficile che io ci torni. E comunque è difficile che io, tornando lì, incontri proprio questa persona. Per cui pensavo che non l'avrei incontrato mai. Poi un giorno, perché nella vita ci sono anche le coincidenze, un giorno mi hanno invitata a un convegno a Grotta a Mare, vicino Ancona. Io sono andata. Ho preso un treno da Milano per San Benedetto del Tronto. A San Benedetto del Tronto sono venuti a prendermi la macchina e mi hanno portato a Grotta a Mare. C'è stato questo convegno, il convegno era finito da un po' quando mi squilla il telefono ed era un numero italiano. Io rispondo e sento: Tamara, sempre bello parlare con te. Dico: ammetto, ma da dove mi chiami? Dove sei? Mi fa: Tamara, non ci crederai, sono arrivato in Italia, qui si chiama San Benedetto del Tronto. Qui si chiama San Benedetto del Tronto. Io ho fatto: ammetto, ma siamo vicini, cioè non ci credo, guarda, è incredibile anche raccontarlo, non ci credevo nemmeno io in quel momento. Vabbè, insomma, ci siamo dati appuntamento per la sera, perché poi io ero impegnata, e la sera ci siamo visti, lì c'è il mare, e lì mi ha raccontato appunto che i suoi figli erano morti, che lui era di Cirene, che lui, quando le cose si erano assestate, era ritornato a Cirene. Però quando era entrato in quella casa, nella casa dove lui aveva visto crescere i suoi figli, il dolore era stato troppo forte, e l'unico modo che lui aveva trovato per sopravvivere a questo dolore era stato proprio resettare tutta la sua vita, cominciando dal cambiare il suo nome. Io non sono più Ahmet, io mi chiamo in un altro modo, io ho un'altra vita. Ed effettivamente lui ha cambiato completamente vita. Ora credo che faccia, almeno l'ultima volta che l'ho sentito, perché poi cambia, adesso fa l'interprete per le persone che vanno lì, tipo gli imprenditori che vogliono ricostruire. Radio Cooperativa. Da noi piano piano io l'ho definita così, la viva luce della memoria della nostra guerra si sta spegnendo. Restano i racconti scritti e ogni tanto qualche commemorazione. Lei, che la guerra l'ha raccontata, ma anche vissuta in tutti i suoi drammi, cosa può dire, raccontare, per ricordare a tutti che non si deve mai dimenticare, che le guerre non riguardano sempre gli altri, e perché anche la stabilità in Europa è importante, e che tutto può succedere. Cosa possiamo fare per invitare la gente, i giovani, ne abbiamo accennato prima, a non dimenticare? Beh, intanto è importante raccontare ai giovani quello che succede intorno a loro. Non bastano appunto i telegiornali, non basta internet. A volte, me ne sono accorta anche questa mattina, a volte c'è proprio bisogno di sentirtelo raccontare da una persona che comunque c'è stata e che te lo racconta in prima persona. Soprattutto bisogna forse un po' contrastare questa violenza che ci circonda dappertutto. Appunto, prima dicevo i videogiochi sono sempre più violenti, ma anche il modo di parlare è cambiato. Forse abbiamo cercato di edulcorare l'italiano di tante parole, quindi sostituendo dei termini con degli altri che fossero meno, ne so, lo spazzino non esiste più, esiste l'operatore ecologico. Però facendo questo abbiamo forse dimenticato qualcosa, cioè che non basta cambiare, dare un nuovo nome alle cose, bisogna cambiare proprio noi stessi ed educare i giovani non alla violenza, ma proprio a sentire la pace dentro di sé e a volerla intorno a sé. Io penso che un mondo di pace possano costruirla veramente quelli che sono i ragazzi che adesso vanno nei licei, nelle scuole superiori, quelli, insomma. Quindi i bambini scuole, di oggi. Le scuole sono fondamentali, sì, per questo. Sì. Allora, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa e con noi c'è la dottoressa Tamara Ferrari che ci racconta del suo libro Il confine sminato. Io vorrei adesso uscire un attimino, dottoressa, dal libro, perché non ha fatto solo questo. Lei si occupa molto di questo fenomeno, purtroppo, il femminicidio. Sì. Ma perché all'improvviso tutto questo accanimento contro le donne? Che sta succedendo? Probabilmente c'è stato, intanto il femminicidio è sempre esistito, però c'è stato un cambiamento sociale molto forte in Italia negli ultimi anni, laddove c'era la stabilità delle famiglie, adesso questa stabilità non c'è più, e probabilmente questa mancata stabilità si è accompagnata a una mancata educazione sentimentale. anche nelle scuole, anche all'interno delle famiglie. E quindi sia da una parte c'è stata un'emancipazione femminile, diciamo, anche abbastanza veloce, dall'altra parte un'incapacità maschile di tenere fronte a questa emancipazione. E quindi assistiamo a, diciamo, l'incapacità di certi uomini che non, appunto, non hanno avuto un'adeguata educazione sentimentale a sopportare il fatto che una donna possa decidere magari di lasciarli, e quindi si hanno queste reazioni a volte barbare. Certo. È un argomento difficile che logicamente non si può parlare non si in, può, in non due si può minuti, ridurre solo in questo, certo, perché comunque certo. Io insomma sono vicina al fenomeno del femminicidio per un episodio che è accaduto quando avevo 15 anni, una ragazza io sono calabrese, una ragazza di Cosenza che si stava recando da Cosenza alla casa al mare della famiglia in motorino e che durante il percorso in motorino fu fermata, stuprata in maniera barbara e uccisa, una cosa che colpì tutta la Calabria all'epoca, ma divenne anche una storia nazionale. Questo per far capire che comunque non è un fenomeno, cioè questa cosa esiste da sempre, ora se ne parla di più e ha questo modo di vedere la donna. All'epoca lei era una ragazza sola in motorino e ha pagato per questo. Adesso si paga perché si ha il coraggio magari di prendere delle decisioni, di lasciare una famiglia. Tra le altre cose si è occupata di disabilità, ma per questione sì. di tempo appunto magari ne parleremo, spero veramente di cuore, in un'altra occasione. Nel 2010 ha fatto un bellissimo reportage sui braccianti di Rosarno, sì. che ho letto su Vanity Fair. Però di questo sì, un accenno vorrei farlo. Nel 2015 riceve un premio speciale, un premio giornalistico, Omar. Sì, che non malattie è rare. Sì, non è un nome, è Osservatorio Malattie Rare, che riguarda proprio un ragazzo di Padova. E l'articolo si chiamava Alessandro è troppo grande per continuare le cure. Sì. Due parole me le fa, dottoressa, qui. Ma c'è un problema, allora, le malattie rare intanto il loro nome fa capire che appunto sono poco conosciute, no? Perché sono rare, e di solito ci si concentra sui bambini, perché questi bambini che appunto soffrono di malattie rare raramente arrivano alla maggiore età, e quelli che arrivano alla maggiore età non ci sono le strutture, non c'è, veramente non si, negli ospedali non si è preparati a affrontare le cure di questi ragazzi che in realtà sarebbero dovuti morire molto prima. Alessandro era uno di questi ragazzi, veniva ancora curato come se fosse un bambino e sua mamma ha fatto una battaglia per garantire le cure d'adulto a suo figlio. Io ho raccontato la loro storia. Io avevo aperto un blog che si chiamava Malanova sul sito di Vanity Fair, che doveva all'inizio parlare di femminicidio e disabilità. Poi ho scoperto il mondo delle malattie rare e ho scoperto che raccontando per ogni malattia rara una storia, cosa succedeva? Che quando a una famiglia dicono che il loro bambino ha una di queste malattie, di solito tu non sai, non si sa, sono malattie di cui non si sa quasi nulla, quindi cominci a fare, la prima cosa che fai è una ricerca su internet per cercare di capire se c'è una cura, eccetera. Magari si imbattevano in uno dei miei articoli dove c'era la storia di un'altra famiglia che stava affrontando quella stessa malattia, mi scrivevano. E potevano mettersi in comunicazione. Infatti. Però io non ho più trovato poi articoli. Dove è finito il blog di... Perché un anno fa sono andata via da Vanity e il blog si è arrestato, ma sto cercando di ripristinarlo su altri canali. Mi auguro, sì. Mi auguro, me lo farà sapere, perché a chi sicuramente ha condiviso questa giornata in qualche maniera glielo farò sapere. Una domanda, i giornalisti oggi sono, parlavamo prima, continuamente sotto attacco dalla politica. Sì. Siete veramente liberi di fare il vostro mestiere o bisogna farlo a condizioni che? Allora, io non ho mai avuto limiti, devo dire la verità, probabilmente perché la mia era una casa editrice americana, io facevo reportage in zone di guerra, non mi occupavo di politica, soprattutto non mi occupavo di politica italiana in Italia. E quindi sono sempre stata libera. Poi dipende da persona a persona. Ci sono dei giornalisti che sono politicizzati, ci sono dei giornalisti che invece sono veramente liberi e ci tengono alla loro libertà. In ogni caso esiste una pluralità di opinioni e di informazioni, per cui credo che il problema insomma non si ponga. Credo soprattutto che ci sia un attacco smisurato che sia che in questo momento è finalizzato a zittire i giornalisti. E questo è una cosa che non va bene, perché il giornalista è un po' il cane da guardia del potere. Se tu lo zittisci non è più un cane da guardia, e la strada verso la dittatura è abbastanza spianata. Anche noi dovremmo vigilare sulla libertà di stampa, quindi. Anche noi dovremmo vigilare sulla libertà di stampa, anche sulle querele temerarie. È una battaglia. Io sono consigliere nazionale all'Ordine dei giornalisti, e una delle tematiche che stiamo affrontando è proprio quella delle querele temerarie. Si querelano i giornalisti perché gli vengono chieste delle cifre enormi, perché la maggior parte per intimorirli. Nel 2019, dottoressa, ci sarà qualche altra sorpresa in programma, con un libro? Sto scrivendo qualcosa, dovrebbe uscire, però non posso dire di più. Beh, comunque sarò informata, sì. Sicuramente. E vi ricordo, prima di chiudere, che i libri di Tamara Ferrari, Con gli occhi sbarrati, racconto del risveglio di Salvatore Crisafulli dal coma vegetativo, e Il confine sminato, Le trovate disponibili in tutte le librerie, in qualsiasi libreria, o internet, o Feltrinelli, o Mondadori. Voi entrate, il libro di Tamara Ferrari lo trovate. E prima di chiudere volevo, mi permette dottoressa, ringraziare una persona che si chiama Paola Ferrari, sì, che è la sorella. Sì. La sorella di Tamara, che mi ha aiutato a contattare, mettermi in contatto con la dottoressa Ferrari, e raccontare di questo meraviglioso libro, che vi consiglio di leggere per capire un po'. Non è un racconto politico. No. Non è un racconto politico. Racconta un po' dei risvolti della guerra. Di cosa vivono queste persone e perché? Perché ci ritroviamo alla fin fine in tutta Europa con tutta questa gente che noi bene o male facciamo fatica a volere, però stanno scappando, e bisogna anche ricordare che anche i nostri genitori sono scappati dalla guerra. Dottoressa Ferrari, cosa devo dire? Io la ringrazio tantissimo. Grazie la ringrazio a voi di tutti. Questa opportunità. Io spero di, abbiamo accennato prima, di non diciamo cosa, però speriamo di rivederci presto, magari verso febbraio. Speriamo, dai. Una qualcosa di importante. Importante, sarò felicissimo di poterla gestire. Quindi a nome di Radio Cooperativa, di tutti gli ascoltatori, le auguro un buon ritorno a casa, e spero che possa ritrovare anche lei, magari un giorno, a raccontarci di città completamente cambiate, in meglio. Lo spero anche io, grazie. Grazie dottoressa, a presto. Un buon proseguimento di serata a tutti da Radio Cooperativa e da Gilles Facchinelli. Rock Wave Live presenta Io mi racconto, con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20:30 alle 21:45 sulle frequenze di Radio Cooperativa.